Io sono Donatella, sono qui con altre lavoratrici precarie e disoccupate dello Sly Cobas per il sindacato di classe e dell'MFPR. Siamo venute da diverse città, da Palermo, Taranto, Milano, L'Aquila, in rappresentanza di diversi settori di lavoro. Siamo lavoratrici della scuola, cooperative sociali, operaie degli appalti ex Ilva, rappresentiamo, abbiamo portato la voce anche delle operaie della Beretta, della Clementoni, lavoratrici delle poste. Allora, siamo venute al concentramento e abbiamo affisso uno dei nostri striscioni, perché abbiamo due striscioni. In uno striscione c'è scritto fascista Meloni, noi donne ti faremo la guerra, perché la Meloni rappresenta un governo che ci sta attaccando a noi lavoratrici e precarie e disoccupate sotto ogni aspetto, sta attaccando tutti i lavoratori e le lavoratrici, ma noi lavoratrici veniamo veramente attaccate doppiamente, non solo nei posti di lavoro con le nuove leggi che vogliono fare, ma anche ideologicamente come donne, per questo governo dobbiamo essere solo donne riproduttrici di figli. Niente, la polizia ci ha subito circondato intimandoci di lavare questo striscione perché era offensivo nei confronti del Presidente del Consiglio. Abbiamo detto naturalmente di no, perché forse siamo ancora in un diritto, diciamo, c'è ancora un diritto di libera espressione e quindi noi non avremmo tolto assolutamente questo striscione. Loro ci hanno minacciato di portarci in questura e di identificarci. Questa, comunque, abbiamo resistito, abbiamo difeso il nostro striscione, rivendicando e dicendo chiaramente che come lavoratrici continueremo a dire apertamente, liberamente, ovunque siamo, nei nostri posti di lavoro ma anche nelle piazze, che questo è un governo fascista, sessista, razzista, e che non faremo passare quello che vogliono fare passare per noi donne, cioè il moderno medioevo che deve diventare una normalità. E niente, alla fine poi questo striscione l'abbiamo preso, l'abbiamo portato nella piazza dove c'erano le altre compagne che si stavano compattando, le altre giovani, e abbiamo denunciato il fatto. Devo dire che abbiamo avuto anche solidarietà da parte di chi c'era, sono partiti degli slogan Meloni fascista, siamo tutte antifasciste, e quindi adesso siamo qui che ci stiamo predisponendo per l'inizio della manifestazione e continueremo a portare avanti i nostri contenuti. Quindi questa manifestazione comunque è iniziata a suon di repressione, come naturalmente questo governo ancora di più vorrà porre in tutte le cose che farà.